Me ne stacco volentieri perché vuoi imparare qualcosa di particolare. Questo qua è l'aparetto di Ambusian. Fai vedere. Non ti sto prendendo per il culo. Quello è l'aparetto di Ambusian. Due ne ha tirati giù dal palco e uno, mica io e Vino, siamo riusciti a prenderlo, mica stavamo menando la gente. Sì, sì, è rigidissimo. Lui per suonare, per andare così a manetta, vedi che flette. Mica trovi una cosa, cerchi una cosa e trovi una cosa, un frutto di pane. Che raffigato. Suona, fra. C'è qualcosa che non va. Sarà questo c'era. Me lo regali. Sì. Sono sogni che son come spadigli e corriamo nelle nebbie come orsi e conigli in cerca d'amore verso una luce migliore, semaforo a ore, semaforo a ore. Verso la luce, wow. Verso la luce, vedo nel vuoto, rincorse nel buio, vedo nel vuoto, rincorse nel buio. Note nel cuore, arabesco e chantillè, mouton, gonna son one and one. Ma cazzo, una figata. Cosa vado a prendere il telone rosa? Vado a prendere il telone rosa. Com'è bella, eh? È una figata. Thank you. con un gioiello. Vuoi che suono quello là allora? Sì. Mi farebbe proprio un piacere. No, è più una cosa, sai, da dare uno spirito. Questo intro serve quasi a trasportarti in un'atmosfera creativa. Capito cosa intendo dire? Questo sarà l'intro. Ok. No? E serve la campana tibetana. Campana tibetana, quella chiacchierata iniziale che hai fatto. Ah. E dai una sorta di spirito, no? Proprio. Ah, ok. Cioè, sono alla ricerca di ingabbiare un po' una sensazione atmosferica io. Ah, okay. Per dargli magia, no? Ed è difficile certe volte, l'ho messo qua al sicuro, eh? Cioè, questo che hai detto Jimmy Page. Jimmy Page. Puttana, il primo. Bomba. Però è bello, stupendo. Grazie. Salute. Salute, fra. Salute. Il massimo miglior suono è qua. Ok. Thank you. adesso. Dici, preferisci?